Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Si è conclusa il 10 novembre H2 Roma Energy and Mobility Show, una manifestazione che è giunta al decennale quest'anno, organizzata da CNR, Enea e anche Università della Sapienza di Roma. La prima manifestazione ad occuparsi di mobilità sostenibile, mettendo a confronto la ricerca indipendente e l'industria automobilistica. Allora, cerchiamo di tirar fuori un po' il succo di quanto è venuto fuori da questo confronto con l'aiuto di Fabio Recchini, che è coordinatore del gruppo Ricerca Automotive dell'Università della Sapienza, che abbiamo conosciuto pochi giorni fa, e anche coordinatore proprio del comitato scientifico di H2 Roma. Buonasera, Recchini. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, senta, lì ad H2 Roma si è visto bene come ci siano in campo veramente moltissime soluzioni, a volte sono alternative, a volte invece sono integrabili tra loro. C'è una competizione sia sul lato tecnologico sia sul lato dei vettori energetici. Io ho provato ad elencarli, quelli che mi venivano in mente, i vettori energetici alternativi, quindi esclusi benzina e gasolio, quelli classici, e vengono fuori biodiesel, bioetanolo, altri combustibili liquidi come il butanolo, il gas, il biogas. Poi per le auto elettriche abbiamo in competizione batterie con i supercondensatori, con le celle a combustibile che invece servirebbero appunto per fare l'auto idrogeno. Insomma, c'è veramente un ventaglio spaventoso di alternative. Allora, che cosa dobbiamo aspettarci che succeda? Come cambierà il panorama dell'auto nei prossimi anni, le chiedo. Ma guardi, come ha detto lei, si vede chiaramente la convivenza di più soluzioni sul mercato da un punto di vista tecnologico e di più vettori energetici, dove per vettore intendiamo quello che porta l'energia a bordo dell'auto, no? Da fuori a dentro. Questo è sicuro, però ci sono dei filoni, diciamo così, forti che si vanno manifestando. Ne abbiamo identificati due, questa è un po', se vogliamo, la conclusione di H2 Roma col confronto tra 14 industrie dell'auto e grandi aziende dell'energia e la ricerca indipendente italiana. Le due sono, una in una parola inglese che è downsizing, che significa praticamente motori più piccoli, più efficienti e che inquinino meno ma a parità di prestazioni. Ecco, in downsizing c'è scritto praticamente che i nuovi vettori non solo devono essere diversi ma devono essere usati meglio, cioè con efficienze maggiori di quelle del passato. E l'altra è elettrificazione. Ormai più che di auto elettrica si deve parlare di auto elettrificata, perché anche l'auto non elettrica, cioè non elettrica pura, in realtà si va elettrificando, cioè salgono a bordo motori elettrici, batterie, e questo cambia l'architettura e dà nuove prospettive. Mi sembra di capire che dobbiamo dimenticarci un mondo nel quale ci sono due vettori energetici e di fatto una sola tecnologia motoristica, o quasi. Andiamo verso una situazione di grande diversificazione. Ma guardi, senz'altro, perché noi dobbiamo dimenticarci un mondo fatto di una sola fonte. Perché i due vettori che indica lei, diesel e benzina, vengono dal petrolio, esatto. Quindi è un mondo che dipende solo dal petrolio. Questo è quello che va cambiando, fortunatamente direi, perché ci dobbiamo invece inventare, o comunque stiamo costruendo un mondo dove più vettori possono essere soprattutto prodotti da più fonti, con grande attenzione alle fonti rinnovabili. Per esempio, anche la stessa famiglia probabilmente potrà utilizzare fonti diverse. Per esempio, non si può escludere che magari ci siano due auto in famiglia, però una molto piccola ed elettrica, il downsizing anche di cui lei parlava, e magari una con cui si va in vacanza che ha un motore a combustione all'interno. Poi magari sarà ibrida o chissà che cosa. Certamente, l'altro grande fenomeno che pervade il mondo dell'auto è l'urbanizzazione, cioè ormai più della metà della popolazione mondiale vive in città e soprattutto in grandi città e megalopoli, quindi ci sono delle auto che si vanno specializzando per questo tipo di ambiente, cioè l'ambiente urbano. Ecco, quelle auto, quell'ambiente è particolarmente adatto all'arrivo di una tecnologia nuova che è l'elettrico puro, cioè le auto a batterie sappiamo che hanno la caratteristica di avere un'autonomia di marcia di 100-150 km con una ricarica e poi hanno bisogno di qualche ora per essere ricaricate di nuovo. Ecco, 100-150 km rispetto all'utilizzo medio quotidiano di un abitante delle città di tutto il mondo sono ampiamente sufficienti, tutti facciamo meno di 50 km al giorno. Però per dare invece quella che è la tranquillità di un viaggio sicuramente non sono sufficienti, quindi si prospetta un mondo dove in città possiamo usare un'auto elettrica, ma magari per andare fuori città anche membri della stessa famiglia usano poi un'automobile che ha ancora un motore a combustione interna dentro al cofano. Nei prossimi due anni che cosa possiamo aspettarci che arrivi poi concretamente sul mercato? Nei prossimi 2 anni arriva certamente parecchio ibrido, principalmente full hybrid, quindi con dei motori elettrici importanti capaci di muovere muovere direttamente l'automobile dando un'autonomia in solo elettrico. Arrivano praticamente da tutti i grandi costruttori mondiali e quindi full hybrid certamente. E poi l'arrivo di plug-in hybrid che arrivano già dall'inizio del 2012 e tra 2012 e 2013 da più costruttori, che quindi permettono di fare il pieno solo di elettricità e avere autonomia in solo elettrico di decine di chilometri. E poi anche molte auto elettriche, le quali andranno incontro a una sfida, cioè quella di vedere se veramente il consumatore o l'automobilista o le flotte cittadine vorranno integrare nell'uso urbano una mobilità ad emissioni zero. Questo è quello che arriva certamente, ma parliamo di decine di modelli. Insomma, ci sarà l'opportunità, ma anche il problema di dover scegliere. Allora domani torniamo su questo tema, quello dell'ibrido, per cercare di districare questa matassa e di capire in che cosa differiscono le varie tipologie di ibrido che ci troveremo presto davanti. Per intanto grazie Fabio Recchini. Grazie a voi, buon lavoro, a presto. È tutto, a domani.